fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Parla, sennò... Eccoci qui, benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte in base a quando ci state ascoltando, perché questa è Ristoradio Convento, la web radio del convento di Nonato del Garda, quindi accesa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e non sappiamo quando questa voce la sentirete nei nostri programmi. Quello che è certo è che è sabato di Inner & Dance, 16 giugno 2018, e che io sono Master Nick, e qui come dire tengo la manina a tutte quelle persone che vengono a trovarci e vengono a raccontarci un po' della loro serata. E come sempre mi fa piacere fare, inauguriamo, ma non solo, perché solitamente le scelgo sempre chissà perché, con quattro bellissime ragazze e una in particolare che sta festeggiando con noi questa sera, e andiamo a conoscerla e conoscerle un pochino meglio. Partiamo dalla festeggiata, buonasera, benvenuta. Ciao. Come ti chiami? Debora. Da dove, Debora? Da Gallarate. Da Gallarate, che si trova dove? Per i nostri... di Varese, vicino all'aeroporto di Malpensa. Ecco, vicino all'aeroporto di Malpensa. Quindi già la domanda che tutti si vogliono fare è: dormi la notte tranquilla? Non senti gli aerei? Non hai la fobia degli aerei? No. Perché sai che c'è quella media di persone piuttosto alta anche nel mondo che soffre ad esempio le campane. Chi dorme vicino alla piazza e soffre le campane, chi soffre i treni, tu non soffri gli aerei? No, assolutamente. Ma quanto disti da Malpensa? Sarà neanche una decina di chilometri. Ah, vicinissimo. Sì, vicinissimo. Siamo abituate. Ah, ormai vi siete, esatto, vi siete, diciamo che che la rotta degli aerei è da un'altra parte rispetto al nostro. Oppure avete un jet lag automatico, esatto, che ormai non vi fa sentire più nemmeno, anzi magari vi tiene compagnia, ecco, vi culla anche un po' il rombo del motore degli aerei. Ma siete anche capitate vicino alle piste? C'è che c'è anche un po' di tipo... Andavamo da bambine. C'è il turismo dell'aereo, che c'è tantissime persone che si avvicinano alle piste, guardano, molto affascinate. Da bambini, sì. Sì, vi è capitato quindi. Ma che c'è un bel traffico, sì. Immagino di sì. Sì. Sì, lui è malato, lascialo stare. Ecco, lo facciamo internare, non ti preoccupare. Bene. C'è tanto giro, sì. Sì, abbastanza. E tra l'altro specifichiamo che tutti credono che... Sì, hai ragione. Anch'io sono pienamente d'accordo. Non ti spiego quando compi la maggiore età. Quando compi 18 anni ti spiego cosa è successo. No, tranquilla. E, no, dicevo che c'è un bel traffico sicuramente, e che non, tanti magari non sanno che pensano che Malpensa sia a Milano, ma comunque è praticamente a Varese, no? È confine con Varesino. Sì, in realtà cambia la provincia, però... E siamo lì, sì, siamo esatto. Lì. Però parliamo di cose importanti, ad esempio la tua festa di questa sera, e cosa succede? Festeggio il mio addio al nubilato. Il tuo addio al nubilato, molto bene. Vedo che hai anche una stella tipo Hall of Fame hollywoodiana che ci ricorda che sei la sposa, perché è giusto mettere i puntini anche su lei quando ci vuole. E quando ti sposi e con chi? Al primo settembre con Andrea. Con Andrea il primo settembre, ok. Quindi diciamo che hai preso un attimino la cosa con comodo, perché di solito si fa più a ridosso del matrimonio. Ma ci sono le ferie. Le ferie. Quindi è meglio anticipare un attimino. E quindi l'altra grande domanda è: organizzando il matrimonio e mancando veramente pochissimo in quel periodo, vai in ferie oppure salti quest'anno? No, vado in ferie con viaggio di nozze. Ah, e quindi posticipi. Mi sposo al primo, al 3 parto subito. Perfetto, beh, però agosto niente, quindi. Sì, sono a casa la settimana di Ferragosto, però. Come a casa, tutti? Ok, quindi posticipi. Dove andate di bello? Facci sognare Canada. Un po'. Canada? Il viaggio che hai sempre sognato, o è una cosa, allora, che avete organizzato? No, siamo partiti dalla Polinesia francese. Beh, che direi che Polinesia francese e Canada, esatto. È una scelta praticamente cugina quasi, ecco. Poi io adoro il mare, Andrea sotto l'ombrellone fa un po' fatica, allora abbiamo optato... Canada, che è conosciutissimo per le spiagge, mare, esatto. Spiagge coralline, siccome quasi caraibiche. No, ma siccome ci piace viaggiare, allora abbiamo scelto questa meta. Oh, fai benissimo, anche perché il viaggio di nozze è banale ridurlo così, ma è vero, è quella cosa e quel posto che non vedresti mai probabilmente nella vita, e per cui dici: oh, sto giro mi tolgo lo sfizio. Quindi è bello sognare in grande e andare anche su mete che davvero probabilmente non potremmo mai neanche pensare di vedere nell'arco del tempo. Siete più viaggiatori da giriamo 250 cittadine o tipo Montreal una settimana e ce la guardiamo tutta? No, un giusto equilibrio. No, ok. Ok, e il tour che avete organizzato com'è? Fa Montreal, Toronto, Cascate del Niagara, Fiumi e San Lorenzo, ci sono i grandi classici, dai, sì, esatto. I grandi classici, la parte, quella parte, non la parte di Vancouver, no, altrimenti okay. Ci volevano molti più giorni. Ok, ok, salutiamo gli ascoltatori di Vancouver, tra l'altro, non vi preoccupate che non... Sarà un'occasione per tornare. Esatto, sì. Deborah non vi odia, non vi preoccupate, no, e non... continuate a seguirci comunque, anche se ha detto male della vostra città, no, però... è vero, anzi, mi dispiace. Ah, beh, recupera gli ascoltatori di Vancouver, vai. E ci sarei stata anche molto di più. Perché Vancouver è bellissima per quella cosa che mi raccontavi prima fuori onda, bellissima da vedere assolutamente. Certo, tutta la natura. Bello, bravo. Tutta la natura, dovete meno città, più natura. Più natura, dovete sapere, ascoltatori di Vancouver, che non ha fatto altro che parlare di Vancouver nei 3 minuti del fuori onda. E io ho detto, guarda, ti prego non parlarne al microfono, perché veramente mi hai fracassato le balle per 5 minuti prima. Adesso basta, vero? Giusto, è vero. Quindi non vi preoccupate che la Deborah non l'avete persa come cliente, vi recupererà. Allora, poi non sei sola, perché è giusto dirlo. Chi ti accompagna, al di là nella vita, il tuo uomo, ma questa sera non c'è, come è giusto che sia, e ci sono persone altrettanto importanti, immagino. Esatto, Anita. Ciao. Anita, benvenuta Anita. Che tra l'altro dobbiamo ancora capire se sa dov'è finita, perché era un po' spersa all'inizio della serata. Ancora non l'ha capito. Ancora non l'ha capito. Esatto. Ma secondo me è l'anello che ti dà un po' di... esatto, ti toglie un po' di equilibrio. È il piercing, può essere. Comunque l'Anita che nella... continua a far rime con Anita. Nella tua vita è? Dove si colloca? Sì? E collega. Amica e collega. Amica e collega. Pensa che... beh, se ti ha voluto... se ti ha voluta qui qualcosa vorrà dire. È vero, Quindi qualcosa vorrà dire, vuol dire che c'è qualcosa di bello. Non amatevi così platealmente, che sennò c'è gente fuori che sviene. Se fate gesti così affettuosi, non scherzo. No, è bello che... e dopo dormire insieme nel letto. Però c'è un matrimoniale che le aspetta? Sì. Deborah e Anita? Sì. Notte di fuoco? Può essere. Voi avete prenotato a 120 km di distanza. Ecco. Tornando al discorso di prima, le due bionde del gruppo, anche se non le vedete, ve lo certifico io che sono bionde, hanno superato il rumore delle aeree, ma ancora non hanno superato il rumore delle urla della Deborah e dell'Anita insieme nello stesso letto. E quindi hanno prenotato a un centinaio di chilometri di distanza per essere sicure che non essere disturbate durante il sonno. Bene, quindi amiche e collega l'Anita, poi... abbiamo Lucia. Ciao! Amica d'infanzia, amica e mia testimone di nozze. Amica d'infanzia, amica, che la differenza c'è tra amica e amica d'infanzia? Ah, perché è cresciuta, non è rimasta però fosse rimasta all'infanzia ancora, no? Rispetto ad Anita ci conosciamo da molto più tempo. Ah, ok, in quel senso. E poi abbiamo, come si chiama, Oliver Stone, lì alla regia? Silvia. Ciao. Quasi parenti acquisiti. Ah, credevo imbucata, no. Cugina dello sposo. Cugina dello sposo, perfetto. Non me ne vorranno le altre due. E è interessante però, la cugina dello sposo, il tuo addio nobilato, come mai? Perché è un'amica. Ah, anche lei è amica. E abbiamo la fortuna di lavorare anche insieme. E lavora insieme. Anche quel tuo otto. Cioè, fondamentalmente è una mafia questa. Sì, è un piccolo clan. Lei è salva. Tu non ti preoccupare. Io il tuo curriculum l'ho già visto girare nelle mani giuste. Non ti preoccupare che qualcosa arriverà. Ok. Vuoi svelarci a questo punto cosa fate insieme? Vi va? Cosa dobbiamo svelare di particolare? No, nel senso, hai 250 colleghe in un metro quadro. Dai, raccontaci cosa fai. Cosa facciamo? Dai, no, non lo posso raccontare io, lo dicono loro. Lo dicono loro, va bene, chi se lo sente? Vabbè, tu sei comunque la protagonista. Vai, raccontaci un po', anche perché penso che tu sia la... lavoriamo... è la responsabile. Esatto. Anche lei non ha ancora... cioè, no. Lei è ancora... lei è tutta sera che cerca una timbratrice per timbrare, esatto, il cartellino. Esatto. Lei è sfasata proprio. No, è elettronico, basta passare il badge. Lei sta ancora cercando il timbratore da qualche parte. Sta chiedendo a tutti, scusa, ma hai visto il timbratore? Siamo arrivati in camera, aveva il badge, dove timbro? Sì, lei è ferma, sta chiedendo merendine a chi, dove può trovare le merendine. Perché è vicino al timbratore. Esatto, la macchinetta, esatto, del caffè, se c'è il Deca, perché magari non è finito il Deca, può chiedere lo espresso. Espresso, monopalla. Ok, un attimo di paura. Quindi dai, cosa fate? Allora, lavoriamo a Gallarate in un ingrosso profumeria di articoli di parrucchiere ed estetista. Quindi donne. Sì, anche uomini ci sono. Ma sì, però diciamo che percentualmente esatto. in grosso, quindi vendete prodotti di medicinali. Profumerie, esatto, e più c'è la parte di ingrosso dove si vendono i prodotti e gli articoli per parrucchiere e sostanze. Create anche o avete già, cioè vendete solo il prodotto finito? Cioè create essenze, magari cose del genere? No, non essenze, lì ci vorrebbe un laboratorio. Ah, ok. No, vendiamo degli articoli. Ah, quindi solo a negozi case, e specialisti. Esatto, sì. Ok, c'è mercato, sì, parrucchiere, l'estetista, una cosa che non è esatto, che non morirà mai, assolutamente sì. Allora, quasi in chiusura, volete fare un saluto, volete dire qualcosa di interessante, al di là del fatto che loro si siano innamorati, persi di voi? Ma succede, può succedere, può succedere. Possiamo rimanere qua? Certo, assolutamente sì, voi siete assolutamente protette, anche perché è un po' quella luce che si crea qui, che comunque vi dà molto più fascino, quindi è normale che la gente... Quindi vorresti dire che fuori non saremmo così guardate? Eh? Quindi vorresti dire che fuori non ci guarderebbe? Dico che qui risaltate molto di più, molto di più, perché comunque qui c'è un po' di... Poi c'è il buio, vi confondete nella folla e... Quindi qui è proprio un... anche nella nebbia padana, assolutamente. Comunque dicevo, c'è qualcosa che volete dire? Qualcuno che volete salutare? Facciamo un saluto a casa? Ah, credevo un saluto a caso. No. Scelgo un nome e lo saluto. Le amiche che non sono potute venire questa sera. E come mai non sono potute venire? Figli, mariti. Mamma mia, come state invecchiando, amiche mie. No. Godetevi sta vita, no? Aspettate. Per sposare. Anche perché la Deborah quando è che si sposa ancora? Si spera mai no, più. Basta, appunto, basta, quindi cosa fate? State a casa mariti e figli e non vi godete la Deborah? Anche perché è stata carichissima questa sera la Deborah. Madonna, vi siete perse c'è una Deborah. Ma non ve lo racconto neanche. Ho uno show. Anche il balletto con l'animatore, cosa vuoi dire? Uno show, è stato uno show. Non le è piaciuto particolarmente. Sì, devo dire, simpatico, carino. Sì, bene. Vedi, bene. Passato, poi lo dico. Cuoricino. Sì, è fantastico, fantastico, molto bene, molto bene. Abbiamo rischiato di mandarla via perché era troppo entusiasta, aveva troppo entusiasmo e quindi rischiava di oscurare tutti gli altri clienti del locale. Poi invece, insomma, cioè, così simpatica che abbiamo deciso di tenerla qui. Anche perché magari trova uno sconticino sul primo. La vecchiaia che avanza. Last minute per andare a qualche spiaggia del Canada, ad esempio, dove si prende il sole. Tra l'altro, la carnagione dei canadesi è chiaramente latina, insomma, ricorda il sole. Va bene, amiche, colleghe, sorelle, fratelle, volete dire qualcosa voi? Io voglio salutare mio marito Marcello e mia figlia Azzurra. Benissimo, molto bene. Quindi sappiate che la prima bionda è andata fuori dal mercato da un po'. Esatto. Quindi non potete più accaparrarvela. Anche perché è l'unica non collega, qualcosa vorrà dire. Esatto. È già l'unica sposata con figli. Poi. Io vado a cercare la timbratrice. Esatto. Staccano vista il gruppo. Sì, lei non smette mai di lavorare. E io nulla. Salutare a casa non saluto a casa. No, odia tutti, odia tutte quelli che a casa. Io saluto Andrea però. È giusto. Ah, io saluto anche il mio cane Lucky. Se vuoi andare alla quarta generazione e salutare il tuo bisnonno che ha fatto la guerra nella prima guerra mondiale, fai pure. No. Voi li conoscete, spero, siano vostri amici. No, nemmeno no. Miei. È bellissimo. Guarda, Madonna, questo è bello. Questo è interessante. Questo è un panorama per me. Poi me lo godo. E va bene. Grazie mille. Andate a ballare. Adesso siete più tranquille. Vediamo. Attenzione perché c'è una statistica SNAI che dà la Deborah sul cubo a 1,10. No, tra non esageriamo. Tra pochissimi minuti. Sì. No. E dicono, voci di corridoio dicono che si toglierà anche la spallina del vestito. No. Cioè che la abbasserà appena sul bicipite. No, non penso. Ci sono queste voci. Vedremo se le confermiamo o meno. Intanto grazie alle nostre amiche e buona serata, buon divertimento e buon ritorno in quel di Gallarate quando succederà. Nel frattempo divertitevi. Grazie mille. Grazie mille, buonanotte, ciao. Buonanotte.